About Cult, il programma di aboutbologna.it condotto da Silvia Santachiara e Valentina Fabbri. Gli artisti della scena musicale contemporanea si raccontano. 25 minuti di immagini, testi e storie. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo tornate. Ebbene sì, siamo tornate. Ciao Valona, ciao a tutti. Mi viene troppo da ridere quando mi chiama Valona. E con una nuova puntata di About Cult. Vi ricordiamo come sempre che siamo anche su Facebook ed Instagram, cercate chiocciola About Cult. L'artista di oggi è Antonio Di Martino, che abbiamo incontrato al Biography in Park qui a Bologna. Sì, Antonio ha all'attivo 4 album, l'ultimo è Afrodite, che è uscito a gennaio per la 42 Records in collaborazione con Piccicca, e a cui ha collaborato anche il produttore Matteo Cantaluppi, che ha prodotto tra gli altri anche dei giornalisti di Ex Otago, i Fask, i Canova, solo per citarne alcuni. L'album è stato anticipato dal singolo Cuore Intero, che ha siglato appunto il ritorno del cantautore siciliano. Con Di Martino abbiamo parlato quindi di come, per curare una società, bisogna prima ripartire dai singoli cuori, ma anche del bisogno di perdersi per poi ritrovarsi, e anche del dramma di quella che lui chiama una vita normale. Noi vi facciamo ascoltare l'intervista, ma prima Cuore Intero di Martino. Cielo, ma il cuore intero e tutti in mille pezzi, ma almeno il cuore intero, il cuore nero. Forse dovrei ripartire da zero per amarmi da solo. Liberarci del mondo rimanendo per sempre come navi nel fondo. Perché spesso ci vestiamo da spiriti per sembrare invisibili, ma alla fine ci compriamo le armi per paura degli altri, per paura degli altri. Yeah. siamo qui con Antonio Di Martino. Ciao Antonio. Ciao, ciao a tutti. Allora, Cuore Intero è il primo singolo che ha anticipato il tuo quarto album, Afrodite, e sappiamo che è stata ispirata da un antico rito egizio, quello della psicostasia, quindi della pesatura del cuore. E hai detto che per cambiare una società bisogna prima occuparsi dei singoli cuori, quindi di curare le proprie solitudini. Un cuore pesa in media 300 grammi. Quanto pesa davvero oggi, secondo te, il cuore nelle scelte, nelle nostre scelte? Beh, pesa come pesava penso 500 anni fa, cioè nel senso il peso del cuore è stato sempre uguale e sarà sempre uguale fino a quando ci sarà l'essere umano. Mi piaceva l'idea che si potesse ripartire dalla solitudine di ognuno, no? Che la solitudine in qualche modo potesse essere una specie di divisione di tante solitudini, e quindi se si parte dal curare la solitudine di una persona soltanto si può cercare di migliorare questa somma di solitudini. In Inghilterra hanno istituito il Ministero della Solitudine, che è un ministero che si occupa proprio di questo, di curare l'essere umano come individuo, non l'essere umano come individuo insieme ad altri esseri umani. Si dice spesso che è tutto intero mentre il cuore è in mille pezzi. Tu invece in qualche modo hai ribaltato, no? È tutto in mille pezzi, ma almeno il cuore è intero. Che cosa volevi dire? Non lo so. In realtà volevo dire, stavo pensando proprio all'integrità dell'organo proprio cuore. Cioè l'unico organo che deve rimanere integro, diciamo, per far sopravvivere un essere umano. Per cui ho immaginato quasi questa forma inscindibile, no? che ha il cuore dell'animale, il cuore dell'essere umano, come qualcosa, come un fuoco quasi che abbiamo dentro. Partire dall'amore, no? Dal concetto di solitudine, dal concetto di amore integro in qualche modo, può essere un buon punto di partenza per curare l'odio, diciamo, che sta andando in questi ultimi anni soprattutto. Pioggia di bombardamenti, volersi bene come fosse un gioco, poi per un niente accoltellarsi in piazza la sera dopo. Ma a volte siamo fari spenti, persi tra l'alcol. Un'autobomba alla scuola, entriamo in seconda ora o rischiamo di morire. sbagliato non aver avuto il tempo di salvarti dall'inferno. In cuore intero, ma anche in Pesce d'Aprile, c'è un tema forte, quello del nascondersi e della paura degli altri, in qualche modo del difendersi dagli altri. Ci compriamo le armi per paura degli altri, dici, illuminato solo dal tuo schermo, terrorizzato dal giardino esterno. Abbiamo paura degli altri per paura di vederci qualcosa di noi? Sì, secondo me l'ha azzeccata. Abbiamo paura degli altri perché probabilmente abbiamo paura di accettare noi stessi, quindi è sempre quello il discorso. Poi quando fomenti la paura in qualche modo non fai altro che in qualche modo accentuare l'insicurezza delle persone, cioè le persone si sentono insicure pur essendo vivendo in una società se vuoi molto sicura rispetto anche a altre epoche storiche. Però se fomenti un pochino l'insicurezza delle persone, naturalmente accentui la paura e con tutto quello che ne deriva. Qual è la cosa che ti fa più paura? La cosa che mi fa più paura è non volere più capire l'essere umano. Cioè ho paura con l'età di volermi in qualche modo astrarre dalla società. Serve perdersi per ritrovarsi, prendersi il tempo di capire chi siamo, ripartire da zero per amarsi da soli. Sono temi che ricorrono un pochino in tutto l'album. Perché secondo te cerchiamo così tanto l'amore degli altri e soprattutto l'approvazione degli altri, mentre siamo sempre meno in grado di amare noi stessi e di capire chi siamo? L'essere umano ha bisogno dell'altro per in qualche modo realizzarsi. Ogni essere umano ha bisogno dell'approvazione dell'altro in qualche modo per sentire che sta facendo qualcosa di buono. Questo un po' fin dalla nascita, no? con l'approvazione dei genitori, in qualche modo. I bambini per primi hanno voglia che i genitori gli dicano bravo, continua. Per fare le cose meglio, quindi l'essere umano è un essere che va curato in qualche modo, va stimolato, è quello che è mancato e che secondo me manca alla società in questo momento, soprattutto in Italia, è per esempio un approccio all'educazione più curata nei dettagli in qualche modo. È come se la scuola in Italia un po' ha fallito. Io ci ho fatto pure il mio primo disco su questo concetto che si chiama Cara Maestra Abbiamo Perso, perché parlava proprio del fatto che in qualche modo quello che si era proposto di fare alla scuola, cioè creare degli individui migliori, in qualche modo è venuta meno, soprattutto in quest'ultimo periodo. C'è un altro tema forte che è quello dei ruoli, dei personaggi, del palcoscenico nel quotidiano. Quindi dici tu sei la cattiva, io chiunque tu vuoi, io il moschettiere e tu la regina. Abbiamo così bisogno di definizioni, di essere, di sentirci qualcosa? Sì, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un ruolo nella società, di un ruolo all'interno di una famiglia, di un ruolo all'interno di un rapporto che può essere di amicizia o un rapporto di coppia. È un bisogno, diciamo, che è all'essere umano in qualche modo. Si sta a vedere quanto siamo affezionati al nostro ruolo e quanto siamo disposti a perdere pur di mantenere un ruolo all'interno di un sistema familiare o sociale. Cerco di mettere in ordine i miei sogni persi. Quasi mai imparo e recito la parte bene, proprio non mi viene di farla come la vuoi tu. I soldi, le cose da cambiare, le tende da lavare. Sì. lei come lei. Ho smesso di fumare ma ho ricominciato a bere un po' di Coca-Cola. Piango spesso, ho scritto il suo nome su un cesso. Ho preso a pugni un uomo che voleva solo farmi ragionare o farsi pagare qualcosa da bere. Nei tuoi testi c'è molta poesia che in qualche modo va a irrompere anche un po' nella crudezza a volte della vita e tanti fotogrammi del quotidiano, i temporali estivi, le luci al neon, le sale bingo, le tende da lavare, i preservativi, gli alberi di Natale. Abbiamo bisogno di qualcosa di rassicurante ma poi viviamo nel dramma di una vita normale. Stabilità o emozione? Come si trova pace? No, questa è una domanda a cui sto cercando di rispondere in questi giorni. Forse per tutta la vita cerchiamo una risposta. Penso che non te la so dare una risposta. Oscilliamo continuamente tutti noi tra la stabilità e la ricerca, no, sempre di un'emozione più forte. In qualche modo questi oggetti quotidiani, anche che hai citato, ci rendono aggrappati al mondo terreno. Ma in un certo senso noi vogliamo, no, astrarci, vogliamo salire in alto, però è come se ci tengono sul pavimento. Dal 2010 ad oggi hai sperimentato molto e affrontato molti temi, dalla sconfitta come ripartenza, la dolce morte, la provincia, la bellezza delle piccole cose, l'amore adulto. C'è qualcosa che ricorre in modo trasversale in tutta la tua discografia? Probabilmente il paesaggio, cioè l'essere umano dentro un paesaggio di provincia o di periferia. Probabilmente se guardo questi dischi e guardo queste canzoni dall'esterno posso pensare che sono accomunate da uno stesso luogo di appartenenza, un luogo geografico di appartenenza. Irene Grandi, sei coautore del singolo I passi dell'amore, che anticipa l'album grandissimo con cui festeggia quest'anno i suoi 25 anni di carriera. Nel brano dite: ci sono storie che ricordi e non sai perché, altre invece che dimenticare è facile. C'è qualcosa che non puoi dimenticare? Sì, tantissime cose non posso dimenticare, però non è un problema, diciamo, non dimenticare le cose. E quello è un pezzo, per esempio, che è nato da una voglia di vedere la vita quasi come un continuo un susseguirsi di accadimenti, no? più che proprio un susseguirsi di cose che accadono continuamente, come un'evoluzione continua, per cui è una canzone a cui sono molto legato e che Irene interpreta, devo dire, molto bene. Quali sono per te i giorni buoni? Giorni buoni sono pochissimi. L'ultima domanda. Sono pochissimi i giorni buoni. Oggi, per esempio, è un giorno buono, non per questo caldo, però mi sento molto positivo. Quando sono in tour sono quasi sempre giorni buoni. Nei temporali estivi, chiamarsi e dirsi ci rivedremo tra un po', il tempo di capire cosa siamo, quale richiamo, cos'è successo non so. Balliamo sotto i neon vicino alla spiaggia, tu ascolti i Pixies mentre io scrivo canzoni leggere, perché sono giorni buoni fatti di ore crudeli, ma sono giorni buoni per confondere. Abbandonati nei parcheggi, figli dispersi, tu dici che passerà questo nostro Vietnam, ma qualcuno sta surfando con la maschera di gas. E cosa resta quando tutto si ferma? Soltanto il suono dei tuoi dischi. Giorni buoni di Di Martino, uno dei singoli che ha anticipato Afrodite. Dal 2010 ad oggi Di Martino ha sperimentato molto e attraverso i suoi album ha affrontato diversi temi. Sì. Ultimissima cosa, è uscito di recente il suo nuovo singolo Ci diamo un bacio, una versione inedita che ha realizzato insieme alla rappresentante di lista. Sui balconi di via Roma, melodie africane a Porta Felice. Ho perduto Palermo nel vento dei tropici, ho trovato l'inferno nel bar sotto casa mia. E ho visto un mostro ingoiare la città, uno sputo di sangue sporcarti le Adidas, violentare la vita dentro le stanze di un tribunale, festeggiare la fica in un circolo culturale. occhi del colore della guerra. Brucia l'attesa distesa su una tavola, aspettando che arrivi dal fondo un'onda anomala. E siamo fatti entrambi di luce stellare, e ci bagniamo nello stesso mare. Abbiamo entrambi figli e cani da sfamare. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. E ho visto un mostro ingoiare la città, uno sputo di sangue sporcarti le organe, una brezza nuova, un taglio alla gola, una pompa di benzina che bruciando illumina il lungomare. E tu che non sai se partire o restare, sarai meri per sempre, Afrodite venduta nel tempio per niente. E c'è una ragazza che ha capelli del colore del cielo, ha gli occhi del colore della guerra. Brucia l'attesa distesa su una tavola, aspettando che arrivi dal fondo un'onda anomala. E siamo fatti entrambi di luce stellare, e ci bagniamo nello stesso mare. Abbiamo entrambi figli e cani da sfamare. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. Ci diamo un bacio prima di farci male. Anche per oggi il tempo è finito, già. Ai noi di già, esatto, vola. E noi vi salutiamo invece con un brano di Brunori Sas. Hanno fatto molte cose insieme e Di Martino è stato anche coautore di Diego ed Io, contenuto nell'album A casa tutto bene. Noi vi salutiamo ed ora Diego ed Io, Brunori Sas. Due incidenti ho avuto nella vita e uno sei tu. Nonostante questo io ti amo. Io ti amo più di ogni altra cosa, anche di me, che sono la tua bimba di cristallo. Nonostante le tue amanti, le mie amanti, che lo sappiamo bene, erano un gioco. Ma se bevi sangue del mio sangue, allora no, questo gioco non te lo perdono. Ma sì che ti perdono, anche se lo so che tanto poi cadrai di nuovo. E sì che tu sei un uomo, io lo so bene. E volano i pavoni, sembrano aeroplani contro le finestre. Siamo il mostro e la bambina, il trionfo e la rovina, noi. Brucia la mia carne senza te, la mia saliva e il mio sudore. Brucia questa nostra casa azzurra, brucia il mio corpo per amore. Morte, prendi quello che resta di me, questo corpo ormai non mi appartiene. Questo letto, questo specchio ormai rifletterà sulla tela solo il mio dolore, che ho provato ad annegare in fiumi di mescal. Ma il dolore, sai, lui sa nuotare. Braccia forti che purtroppo non ho avuto mai, per tenerti e non lasciarti andare. Ma va dove